Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Divenne la mascotte di tutti. I giovani la avvicinavano per farle leggere il proprio racconto, chiedendo di poter leggere il suo. La scambiarono per una professoressa, lei che aveva fatto l'avviamento e 2 anni di segretaria d'azienda. Sono Massimo, ho 55 anni e sono torinese. Sono sposato con Antonella e ho un figlio di 25 anni che si chiama Michele. Nei cassetti della redazione di Voi Siete Qui, tra le storie che arrivano, ce n'è uno dedicato ai genitori, proprio a una sezione intera che di solito è legata all'infanzia, ma non per forza. Ha a che fare con quella figura che ci accompagna da quando siamo bambini fino a quando non ci sono più, o fino a quando semplicemente abbiamo voglia di stare con loro, che ci segna in qualsiasi modo, nel bene o nel male, che sono il nostro papà e la nostra mamma. La storia di Massimo oggi parla esattamente di questa cosa qua, parla di come sua mamma a un certo punto della sua vita abbia stupito tutta la famiglia, abbia stupito lui, abbia stupito i suoi fratelli, una sorpresa assolutamente felice grazie ad una scelta leggera, grazie alla volontà di fare una cosa inaspettata per tutti e all'apparenza anche per lei. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui, ogni giorno una storia, ogni storia una persona diversa. Oggi, come vi dicevo, la storia di Massimo e della storia di sua mamma. Le storie che arrivano sono sempre accompagnate da delle mail, più o meno brevi, e Massimo mi ha scritto così: gentile Matteo Caccia, già diciamo dalla presentazione si capisce più o meno qualcosa di quella persona, ad esempio che è piemontese. Gentile Matteo Caccia, gentile redazione, mi chiamo Massimo Uberti, eccetera eccetera eccetera, sono un medico, ma da molti anni però non faccio il clinico, mi occupo di direzione sanitaria, ma poi ne parleremo con lui. Ho pensato di inviarvi questo racconto di un episodio riguardante mia mamma, è scomparsa 4 anni or sono, proprio in questi giorni. Mi è piaciuto ricordarla perché si tratta di una specie di racconto nel racconto, quindi è l'esplosione del concetto di narrazione oggi, perché raccontiamo una storia che contiene un'altra storia, quindi si parla di scrittura, si parla anche di una scuola a Torino che, insomma, sono amici del programma, che è la scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco, e che fa quello, insegna a scrivere, non più solo a scrivere, a fare un sacco di altre cose, ma nella fattispecie la mamma di Massimo qui ha fatto quello. 349-238-6666, oppure Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook, Voi Siete Qui R24 sul profilo Twitter del programma, per raccontare della volta in cui vostro papà o vostra mamma vi hanno totalmente spiazzato, possibilmente nel bene, nel senso che hanno svoltato verso una direzione che non conoscevate. Mario, ad esempio, scrive: solo alla nascita della nipote mio padre acquistò una casina delle Alpi di nascosto da tutti e ci sorprese alla distribuzione dei regali, lui che non regalò mai nemmeno l'anello di fidanzamento a mia mamma, prima e unica volta. Credo che per distribuzione dei regali intenda che ha proprio regalato la casa, mi sembra di capire. Marta: qualche mese fa mio padre, camionista da 30 anni, attento a mantenere la sua rude immagine da uomo che guida un auto articolato, venne costretto e quindi sorpreso con una maschera di bellezza a base di fango sul viso, solo perché mia sorella quindicenne voleva prima testarla per verificare eventuali allergie prima di fidarsi a metterla sulla sua giovane pelle. L'amore di un padre supera tutto, anche anni di reputazione. È bella questa immagine di quest'uomo su un tipo, su un Iveco gigante, con la maschera di bellezza sul viso. 349-238-6666. Mio padre raccontò con orgoglio di me a un suo amico d'infanzia, scrive Camilla. Lo seppi solo dopo il funerale. Era tipico di mio padre non lodare mai direttamente nessuno. Una cosa che ha fatto vostra mamma o vostro papà che vi ha sorpreso e vi ha totalmente spiazzato. Mettetevi comodi, finiamo alle 16:30. Questa storia dura circa 7 minuti ed è una storia che, se avete voglia di commuovervi, fatelo. Se avete voglia di sentire invece semplicemente una storia che parla di un figlio, di una mamma e di una grande passione, mettetevi ad ascoltare. Aveva 78 anni mia mamma. 2 anni prima era mancato papà, alla fine di una lunga malattia che lo aveva consumato giorno dopo giorno, portandolo, negli ultimi anni, a dipendere dalle cure della moglie, la mamma, appunto. Il morbo di Parkinson, in una sorta di legge del contrappasso, aveva azzerato una ad una le caratteristiche di un uomo esuberante, vitale ed estroverso, minandone le capacità motorie, la mimica, le espressioni. Un uomo che avrebbe visto solo pochi anni prima quella condizione come una condanna inaccettabile. «Pitost che parei, antiro an culp», ripeteva in piemontese ossessivamente quando era sano. «Piuttosto che diventare così, mi tiro un colpo». E lei, la mamma, gli si era dedicata per anni, annullandosi completamente, quasi senza accettare alcun aiuto. Papà alla fine era mancato. Aveva lasciato che scorressero i mesi estivi, che noi figli tornassimo dalle ferie per non stravolgere alcun programma. E poi, un fresco mattino di fine estate, se n'era andato. Mio papà si ammalò di Parkinson e fu una malattia lunga, durò circa 12 anni e negli ultimi anni della vita la malattia si aggravò e lui divenne totalmente non autosufficiente. E in quegli anni mia mamma si dedicò completamente alla sua assistenza. A quel punto ci aspettavamo tutti un crollo di mamma. Ed invece rimanemmo sorpresi nel vederla, nei mesi successivi, attingere a risorse insospettate. Nel vederla aprirsi ad interessi prima compromessi dal ruolo di madre e di moglie. E quindi cominciò a frequentare corsi, conferenze, università della terza età e ogni altra manifestazione culturale si presentasse a Torino. Nella sua vita precedente l'unica passione che aveva potuto coltivare era stata la lettura. Ora poteva ampliare l'orizzonte. Ora poteva scrivere. Si fece regalare da mio fratello un vecchio computer abbandonato. Imparò ad usarlo e cominciò a scrivere. Ricordi e storie principalmente. Uno di questi racconti lo inviò al quotidiano La Stampa nell'ambito di un'iniziativa sul Natale. Era un ricordo d'infanzia, l'acquisto del primo albero di Natale, spelacchiato e poco costoso, l'unico compatibile con il contenuto del salvadanaio, ma comunque magico ai suoi occhi di bambina. Fu pubblicato, ma questa è un'altra storia. L'idea, invece, venne ad Antonella, mia moglie. Si avvicinava il compleanno della mamma e noi ricevemmo dalla scuola Holden di Torino, la scuola fondata da Alessandro Baricco appunto, un avviso. Ad aprile si sarebbe svolta una manifestazione nella quale 6 scrittori affermati avrebbero tenuto una giornata di lezioni di scrittura destinata a 50 studenti individuati tramite un concorso. Titolo della giornata: Perfect Day. Alla fine una cena e una festa in discoteca. Bisognava inviare un breve racconto proprio con quel titolo, Perfect Day. Gli autori dei 50 migliori racconti sarebbero stati ammessi alle lezioni. Ebbene, lei doveva scrivere il racconto e noi lo avremmo inviato. In caso fosse stato selezionato, come regalo di compleanno, le avremmo offerto l'iscrizione alla giornata. Scrisse un brevissimo pezzo, vinse, fra oltre 600 racconti. Il suo fu tra i prescelti. La mamma, emozionata come una bambina, si levò di buon'ora, prese i mezzi pubblici e si presentò a scuola con largo anticipo. Piano piano arrivarono gli altri. Lei era l'unica testa bianca in mezzo a 49 giovani. Seguì tutte le lezioni. Intervenne. Uno degli scrittori, tra quelli che aveva utilizzato diffusamente delle parolacce durante la lezione, si ritrovò, al termine dell'intervento, preso in disparte e redarguito dalla mamma. Mi stupisce che uno scrittore come lei, con gli strumenti linguistici che possiede, debba utilizzare diffusamente un linguaggio volgare per esprimersi. Tanto per capire che tipo era mia mamma. Divenne la mascotte di tutti. I giovani la avvicinavano per farle leggere il proprio racconto, chiedendo poi di poter leggere il suo. La scambiarono per una professoressa, lei che aveva fatto l'avviamento e 2 anni di segretaria d'azienda. Quel giorno mamma mi telefonò 1000 volte, all'inizio, alla fine, durante ogni pausa, con un'unica urgenza: raccontare. Per la prima volta nella sua vita la percepì come una ragazza, felice, entusiasta e gioiosa. A fine giornata riprese i mezzi e tornò a casa. Si fece la doccia, si sdraiò mezz'ora, si rivestì, riprese il tram e si recò alla festa in riva al Po, in discoteca. Lei. Lei per la quale le uscite serali, sempre solo con il marito, si contavano sulle dita delle mani. Poi, a mezzanotte, come Cenerentola, salutò tutti e tornò a casa. Noi pensavamo che la mamma non sarebbe riuscita a tirarsi su, a riprendere una vita normale, così fummo molto stupiti nello scoprire che lei era capace a ricrearsi un qualche tipo di vita e a seguire i propri interessi. Pochi mesi dopo, una leucemia la colse, portandola con sé l'anno successivo. Oltre al senso di assenza, mi rimane il ricordo di quella giornata felice e di quella voce gioiosa e stupita al telefono. E per fortuna però mi rimane anche quella storia, il racconto con cui si aggiudicò quella giornata. Eccolo, si intitola appunto Perfect Day. La fotografia è un po' sbiadita. Un gruppo di ragazzi con fasci di narcisi tra le braccia e i capelli scompigliati dal vento. I visi e le espressioni poco leggibili, ma il ricordo è così nitido che se chiudo gli occhi rivedo i miei amici come se fossero qui. E fra tutti, lui, il ragazzo dal sorriso aperto e lo sguardo profondo e misterioso. Io, timida e schiva, non avvezza a frequentare i giovani dell'altro sesso. All'epoca i maschi e le femmine erano rigorosamente separati, a scuola e in tutte le attività ricreative. Era il 2 giugno del 1948, la meta Salice Dulzio. La partenza è di buon'ora, il mezzo di trasporto spartano, un camioncino militare con due file di panche appoggiate lungo i lati. Durante il viaggio cori, risate, battute scherzose e tanta allegria e voglia di vivere. In quegli anni c'era diffuso in tutti, ma ancor più nei giovani, il desiderio, quasi una frenesia, di fare, di agire, di costruire, in una parola, di riprendersi la vita dopo la catastrofe della guerra. La gita si svolse come tutte le gite: camminata, pranzo al sacco, visi arrossati dal sole e dal vento. Non avevamo creme protettive, ma d'altra parte neppure il buco nell'ozono. E per non farci mancare nulla, anche un acquazzone, che ci fece arrivare zuppi e danzanti al nostro mezzo. Ma a due di noi, al giovane dallo sguardo profondo e a me, accadde di innamorarsi. Un sentimento tenero e delicato come un fiore di mandorlo, ma che si sarebbe irrobustito fino a sfociare in un matrimonio durato oltre mezzo secolo. Miranda Corsino, sabato 26 aprile 2008, Scuola Holden, Torino. Fianco alla sua Vespa, immagino sua Vespa, perché ci ha appoggiato con una mano sulla sella. Massimo è in estate, direi, in un luogo di vacanza. Potrebbe essere una spiaggia o la strada che arriva ad una spiaggia. Ha un foulard intorno al collo, è bello abbronzato, ha i capelli bianchi e questa Vespa, modello, ultimo modello, nuovissima, lucida e pronta a partire. Pronto, Massimo? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, ti ringrazio. Ti ringrazio per il racconto innanzitutto e per aver condiviso questa storia della tua mamma che, insomma, immagino fosse un pezzo della tua memoria molto particolare rispetto a quello che ricordavi di lei, perché dici, insomma, è come se fosse andata, avesse vissuto due vite, no? Infatti parlavi di vita precedente. Sì, esattamente, perché io avevo conosciuto mia mamma completamente dedicata alla famiglia per tutta la sua vita, prima i figli, poi i genitori e i suoceri diventati anziani e malati e infine nella donna che accudiva il marito malato. Certo. E quindi questa capacità di ricrearsi una vita negli ultimi anni per seguire i propri interessi ci stupì moltissimo, tutti ci aspettavamo un tracollo. Non c'era mai stato prima, quindi, una, come dire, degli slanci nei confronti anche solo di un interesse culturale, perché lei a un certo punto, dici, comincia a fare dare università della terza età, avvenimenti culturali nella città, a Torino, ed è una roba che nasce proprio nel momento in cui si trova da sola. Prima non c'erano state avvisaglie? No, lei aveva sempre avuto una grande passione per la letteratura, per il teatro, però erano passioni che coltivava nel tempo libero degli impegni familiari e comunque principalmente a casa, ecco, non al di fuori. Te l'ha raccontato lei che è andata a cazziare lo scrittore? Sì. Sì, in una delle famose telefonate di quel giorno. Ah, proprio in diretta lo faceva? Quasi in diretta. Ti ricordi chi era quello scrittore? No, onestamente no. Ok, o forse preferisci non raccontarcelo. No, non sono sicuro, non voglio. Ok, invece, ci racconti, se te l'ha raccontato, com'è andata in discoteca? Era la prima volta che andavi in discoteca. Quanti anni aveva lei, ce lo ricordi? 78 anni. 78. Era assolutamente la prima volta che andava in discoteca e aveva poi raccontato che tutti i ragazzi andavano da lei perché leggesse i loro pezzi, quelli che gli avevano permesso di accedere a quella giornata, e volevano leggere quello che aveva scritto mia mamma. È rimasta in contatto con questi ragazzi? Qualcuno no. Le ha più scritto? Ma aveva no. Un indirizzo email, ad esempio, tua mamma? No, non aveva. Ah, okay. A internet non è mai arrivata, perché poi pochi mesi dopo si è ammalata, poi gli è mancata, ma diciamo che usava il programma di scrittura sul computer. Ok, e quindi questo racconto, scusami, quanto tempo ci ha messo a scriverlo, questo che abbiamo letto? Un paio di giorni, perché quando gli fu proposto, la prima risposta fu no, assolutamente, e due giorni dopo ci disse che l'aveva scritto, quindi velocemente. Massimo, tu sei un medico che non fa più il medico, invece? Non faccio il clinico, sì. E ti occupi di cose? Di gestione, faccio il direttore sanitario di ospedali, aziende sanitarie. Che è una gran rottura, in realtà. Beh, insomma, nessuno mi ha obbligato, a me piace. Diciamo che al netto di tutta la parte burocratica è un lavoro che a me piace. Che medico sei, però, tu? Io ho una specialità in igiene e in statistica medica. Oh, statistica medica, una roba che non avevo mai sentito, mi sta già eccitando tantissimo. Cioè, immagino. Semplicemente l'analisi dei numeri legati alla medicina. Epidemiologia, sì. Vai, visto, sembrava un libro stampato, era come lo ripetevo. E stai a Torino, giusto? Sì, abito vicino a Torino, ma lavoro ad Asti. E hai una passione per la Vespa? Ma in realtà non è così, la passione è tardiva, nel senso che quella è dell'anno scorso e, dici giustamente, in Corsica, la fotografia è la prima vacanza della mia vita su una due ruote. Ma ed eri da solo? No, ero con mia moglie che era dietro la macchina fotografica e con due amici che si intravedono in alto. Sì, si vede in alto a destra. Amici, in alto a destra si vedono i piedi, anche loro in Vespa. Ah, ok. È detto tutto perfettamente, salvo che la Vespa non è nuovissima ma usata. Senti, in che spiaggia vi trovate della Corsica? Siamo un po' prima di Calvi, un po' più a ovest di Calvi. Ah, ok, quindi siete in alto. Ma mi ricordi quanti anni hai invece tu? Che anche tu, insomma, siete una famiglia dalle passioni tardive. La mamma che esatto. Comincia a scrivere a 78, no, tu, che, moto, insomma, tu che vai in Vespa in Corsica a 50, quanti ne hai? 55. Ne hai 55, ok. I tuoi figli cosa dicono? Il mio figlio, che ha 25 anni, era un po' stupito, ma era contento. Ma adesso sei nel tuo ufficio col sì, camice? Per una mezz'ora di pausa dal lavoro, ma sono nel mio ufficio, sì. Ma sei col camice, anche se fai cose amministrative? No, in questo momento no. Ah, non ok. Ufficio, non sono dentro l'ospedale. E non passi mai in corsia? Sì, dottore, sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Certo. Come va oggi? Ma la fate sempre sta roba? E allora come va, signor, oggi? Tutto bene? Forza! Dai che la mandiamo a casa. È una sorta... Io no, ma i miei colleghi... Ok. Massimo, ancora grazie per la storia e per la chiacchierata. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao grazie. La foto andate a vederla, perché ha una bella faccia Massimo, sul sito di Radio 24, la nostra pagina, voi siete qui. Arrivano messaggi, ne arrivano tanti. Avevo 7 anni, mio fratello 9, l'altro 6 anni, immigrati in Francia. Un giorno all'uscita di scuola pioveva, anzi diluviava, non avevamo impermeabili. Nostro padre, muratore, lavorando lì vicino, ci venne ad aspettare con dei sacchi di plastica, del cemento e degli spaghi, e noi facemmo i 4 chilometri a piedi, la strada di casa, asciutti. Se chiudo gli occhi sento ancora l'odore del cemento. Sono rimasta sono rimasta io, loro tre non ci sono più. Adele, caro Matteo, mia mamma di quasi 80 anni non si è stupita. Qui è: come ti stupisce tua madre? Mia madre mi stupisce non stupendosi quando le ho raccontato che la mia amica ha un figlio gay. Lei, così tradizionalista e bigotta, mi ha davvero stupito positivamente, dicendo: beh, e che c'è di male? Sono andata a convivere. Mio padre non è mai venuto da noi, ma mia mamma è venuta a cena da sola a casa mia. Non aveva mai fatto nulla che mio padre non approvasse. E questa scena te la vedi. Vedi questa signora che dice: ah sì, tu non vieni? Io invece vado. Si prepara, si mette il cappotto e quello non ci crede. Ci sta andando, mi sta lasciando a casa. Io cosa mangio? Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata. Ringrazio Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Ringrazio però soprattutto Massimo e ringrazio anche la sua mamma. La storia di oggi era la loro e tutte e due sono un punto rosso su una mappa. Ciao Marco, sono di Cassino dei Pecchi. La storia di domani la mia parla di un episodio della mia vita brutto ma anche bello, tutto sommato. Questa è la mia storia e io sono qui. Sono ancora qui.